Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli. Noi partiamo da Erasmus, che per molti è il lato buono, o meglio, il lato non controverso dell'Europa. Oggi una giornata per gli stati generali della generazione Erasmus. La nostra Alessandra Schepisi ha sentito il sottosegretario alle politiche europee, Sandro Gozzi, lo sentiamo. È il miglior antidoto contro i muri, contro i nazionalismi, contro il razzismo, perché Erasmus innanzitutto abbatte i muri che ci portiamo dentro, e viverlo in prima persona, capire in prima persona che cosa voglia dire essere cittadino europeo, cioè avere diritti in tutto lo spazio dell'Unione Europea, è la cosa più formidabile che l'Europa abbia fatto, e per questo dobbiamo rafforzarla, non solo per estenderlo nei numeri degli studenti che lo fanno, ma anche per permettere agli studenti che non se lo possono permettere di farlo. Bisogna aumentare in generale le risorse, perché 4 milioni di studenti Erasmus in 30 anni sono una bella cifra, ma dobbiamo moltiplicarla per 10, così nei prossimi 30 anni saranno 30-35 milioni quelli che hanno fatto l'Erasmus, e bisogna anche aumentare le borse, perché altrimenti rischia di diventare un programma che alcuni non si possono permettere. Lei è un ex Erasmus. Io ho fatto l'Erasmus un mese dopo il crollo del muro di Berlino. Feci l'Erasmus in gennaio del 1990 a Parigi, e a me l'Erasmus ha cambiato la vita. Se non fosse stato per l'Erasmus non avrei mai potuto fare il percorso che ho fatto. Cioè è stato quel click che ha fatto la differenza, e probabilmente se non avessi vissuto quell'esperienza non avrei fatto le scelte che ho fatto, che erano dentro di me, ma l'Erasmus mi ha aiutato a capirlo. Fa anche innamorare l'Erasmus? Sì, molto, fa innamorare molto, tanto che sono 1 milione i bambini nati da coppie Erasmus. Mi ricordo che ero a Parigi quando Umberto Eco, nel suo discorso al Collegio di Francia, disse questa cosa, che di fronte alla domanda "abbiamo fatto l'Europa, in parte facciamo gli europei", disse "ma gli europei lo faranno le coppie Erasmus". Certo che fa anche innamorare, ma fa parte della vita. E ora cambiamo argomento. 2 giorni fa Gerry Adams, storico leader dei cattolici dell'Ulster e del partito repubblicano Sinn Féin, ha espresso il timore che l'uscita dalla Gran Bretagna e dall'UE potrebbe distruggere l'accordo del Venerdì Santo. Insomma, l'equilibrio dell'Irlanda, dell'Ulster naturalmente, della Repubblica d'Irlanda all'interno del processo della Brexit. Sentiamo. We don't want to have hard borders between Northern Ireland. Non vogliamo avere frontiere tra Irlanda del Nord e la Repubblica. Non vogliamo che l'accordo del Venerdì Santo sia messo a rischio, e vogliamo che le frontiere di terra siano le più aperte possibile. Jean-Claude Juncker, nell'incontro col primo ministro irlandese Enda Kenny, assicura che la Brexit non stravolgerà gli equilibri tra Irlanda e Regno Unito, e fa riferimento alla principale sfida politica posta dall'uscita della Gran Bretagna, cioè l'accordo di pace siglato nel 1998 a Belfast, che mise la parola fine al conflitto tra i sostenitori della corona britannica e i nazionalisti che aspiravano al ricongiungimento con la Repubblica d'Irlanda nell'Ulster. L'Unione Europea, dice Juncker, lavorerà per mantenere le frontiere permeabili nel nord dell'isola e garantire il processo di pace. Le sfide irlandesi, aggiunto, non sono solo irlandesi ma europee. Il confine tra Irlanda del Nord e la Repubblica d'Irlanda è l'unico confine fisico tra il Regno Unito e il resto dell'Unione Europea. I controlli alle frontiere sono ridotti al minimo in virtù di un accordo tra i due paesi. Un ritorno ai controlli doganali potrebbe dunque danneggiare gli scambi commerciali. Il primo ministro irlandese Enda Kenny ha sottolineato che l'Irlanda certamente resterà tra i 27 e che nel negoziato per la Brexit a preoccupare davvero sono l'accordo di pace, la frontiera e la libertà di circolazione nell'area, dal momento che l'Europa ha sostenuto notevolmente il processo di pace. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E per oggi è tutto, per questa settimana naturalmente, quindi con l'augurio di un ottimo fine settimana a tutti voi, come di consueto la linea va a tutti i convocati. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.